quando e come nasce una religione. Una religione è sicuramente, prima di tutto, un'attività di astrazione simbolica. Quindi l'uomo deve prima esercitare una attività simbolica affinché nasca la religione. Un'attività speculativa. Il primo mezzo per esercitare questa attività speculativa che verte sul simbolo sicuramente è il linguaggio, perché attraverso il linguaggio l'uomo differenzia meglio dentro di sé ciò che lo differenzia dall'esterno. Attraverso il linguaggio io differenzio me stesso dalle cose che mi circondano. Io parlo delle cose e questo parlare delle cose mi distingue dalle cose. Parla oggi, parla domani, che cosa succede? Succede che io in un momento di questo percorso supero, oltrepasso anche accidentalmente, la nuda essenza delle cose. Io mi astraggo dalle cose che vedo e che faccio attraverso il linguaggio. E questo riflettere sulle cose è qualcosa che riesce a fare anche l'uomo più primitivo. Normalmente ad un livello primitivo, perché se l'uomo è primitivo si astrae dalle cose in maniera primitiva, ma sempre un'astrazione è. Questo sganciarsi favorisce enormemente il ragionamento, breve o complesso, e questo ragionamento induce prima o poi una riflessione su se stesso, cioè sulla razionalità. Che cos'è la razionalità? È una domanda che è il frutto di una attività simbolica, speculativa, esacerbata, tipica dell'uomo. Sicuramente questa razionalità non coincide con l'istinto, che è più associabile alla cosa non pensata. Perciò l'uomo, fatto sia di istinto sia di ragione, comincia ad orientare tutto l'esistente verso se stesso. Perché? Perché si concepisce per via naturale come differente dall'ambiente. E fu così che nasce la religione primitiva, nota come animismo. Com'è che nasce rifacendoci al discorso di prima, cioè alla sua capacità di astrarre simboli dalle cose veramente esistenti? La religione primitiva, l'animismo, nasce quando l'uomo rintraccia nella natura non solo cose, ma pure spiriti, percepisce qualcosa di diverso dalla materia, dall'uomo carnale. Il mondo, la natura, si fa un palcoscenico popolato sia da uomini sia da spiriti, e nella religione primitiva questi spiriti sono assolutamente naturali. E questi spiriti nella religione primitiva hanno il dominio dell'ambiente, non ce l'ha l'uomo, ce l'hanno gli spiriti della natura. E se hanno tutto questo dominio, tutta questa forza, allora devi placarli, devi soddisfarli, devi temerli. E in questo passaggio ancora una volta interviene l'attività simbolica che è caratteristica della mente umana, e cioè l'uomo elabora un rito, anche rudimentale, anche primitivo, ma sempre di cerimonia si tratta. E siccome l'uomo ha un quid in più rispetto agli animali, e cioè quello di organizzare e di auto-organizzare la società di cui fa parte in una maniera razionale, pure in una maniera razionalmente primitiva, ecco che in questa religione primitiva comincia a delegare la funzione di soddisfacimento della divinità a degli uomini particolari, ognuno normalmente, razionalmente, deve fare quello per cui è portato. Questo lo concepivano pure gli uomini primitivi. Quindi delegarono a dei mediatori il compito di mediare tra le esigenze umane delle proprie famiglie, della propria piccola società, con le esigenze degli spiriti della natura che e della natura in generale. Questi mediatori normalmente erano dei capi tribù, noti anche come sciamani. Poiché la funzione di difendersi dalle aggressioni della natura era importantissima per la società primitiva, questi mediatori non erano solo dei professionisti della spiritualità, erano anche dei capi tribù, con il compito di offrire primizie agli spiriti della natura per calmare questi spiriti, e queste primizie andavano prese non solo da se stessi, ma anche da tutto il popolo, perché era tutto il popolo che doveva placare la divinità, non solo una persona. E fu così che il culto primitivo comincia a vertere non tanto su un esercizio di devozione da parte di un singolo, ma sul tributo esercitato da un gruppo, da una comunità, dal clan. Il clan nelle religioni primitive è molto più importante del singolo, del fedele privato, del fedele isolato. E siccome una tempesta, una grandinata potevano distruggere intere annate, il mediatore spirituale, lo sciamano, in una religione primitiva è molto più importante del fabbro, del politico, del pedagogo, dell'insegnante, del pescatore, del cantante, del regista o di qualcos'altro. Era quindi il capo tribù. Ed era ovvio che fosse così, perché dalla sua buona opera di mediazione dipendeva il benessere di tutta la comunità, di tutta la tribù. E il frutto di una buona opera di mediazione com'è che si vedeva? Si vedeva dalla bontà della natura, dalla sua generosità, dalla assenza di calamità naturali, come anche dalla resistenza del popolo ad eventuali malattie. Ed è per questo che lo sciamano doveva essere anche medico. Medico non solo di anime, ma soprattutto di corpi. La guarigione del corpo e la guarigione dell'ambiente erano i due fronti specifici su cui lo sciamano doveva agire e su cui veniva misurata la sua forza, la sua virtù.